La principessa Primavera. Molto tempo fa, il gigante della luna, che si chiamava Lunaro, stava passeggiando attraverso le sterili terre della luna, quando improvvisamente vide la bella gigante della terra chiamata Blula. Lunaro si innamorò subito di lei e decise di chiederle di sposarlo. Saltò dalla luna e atterrò sulla terra. Si inginocchiò di fronte a lei, tenendo un albero come un fiore, e le annunciò il suo amore. Blula rimase molto colpita da lui. Lei sorrise. Lunaro l'aveva conquistata. Lunaro le costruì un meraviglioso palazzo sul grande fiume. Era il palazzo più bello della terra. Blula era molto felice. Presto nacque la bambina di Blula e Lunaro. L'eremita gigante, che era venuto per benedirla, annunciò: sarà la principessa di tutte le sorgenti e governerà su tutti i fiumi e i laghi. La chiamerò Principessa Primavera. Blula e Lunaro erano molto felici. Man mano che la bella principessa cresceva, molti pretendenti venivano a cantare le loro lodi sotto le finestre del palazzo, ma lei non ne favoriva nessuno. Era così felice di vivere nel suo bel palazzo con la sua cara madre che non le importava affatto di nessun pretendente. Nessun'altra figlia ha mai amato sua madre come la principessa Primavera amava sua madre Blula. Un giorno Solaris, il gigante del sole, venne a corteggiarla. Quando la principessa Primavera lo vide, rimase sbalordita dal momento che Solaris era l'uomo più bello che avesse mai visto. Wow! È così affascinante! Ehi, bella principessa Primavera! Mi chiamo Solaris e sono venuto da te per chiedere la tua mano in matrimonio. Sono innamorato di te. La principessa Primavera divenne subito triste. Oh, potente Solaris, sei così bello e meraviglioso. Anche io sono innamorata di te, ma non posso lasciare mia madre perché la amo più di chiunque altro. Mi dispiace. Abbattuto, Solaris se ne andò. Il giorno dopo, quando il sole sorse, Solaris tornò di nuovo a palazzo e chiamò la principessa Primavera. Oh, bella principessa Primavera, ti prego, vieni a parlarmi. Sentendo la sua voce, la principessa Primavera uscì subito. Oh, Solaris, sono così felice di vederti. Sono felice di vederti anche io, principessa. E sono venuto per dirti che è impossibile per me dimenticarti. Semplicemente non posso starti lontano. Ma capisco anche il tuo amore per tua madre. Quindi sono venuto con un'altra proposta. E quale sarebbe? Sposami. Vieni con me nel mio regno. Resta con me per 9 mesi ogni anno. E per i restanti 3 mesi potrai venire da tua madre e restare qui con lei. La principessa Primavera sorrise, perché le piaceva molto la proposta di Solaris. Accettò e il matrimonio si tenne immediatamente. Dopo il matrimonio salutò i suoi genitori e se ne andò con Solaris. Pochi giorni dopo il matrimonio, Lunaro andò da Blula. Ehi, amore! È tempo che torni nel mio regno per prendermi cura del mio popolo. Ma io? Devo restare qui da sola? Cara! Ti ho sempre chiesto di venire con me, ma non lo fai mai. Non vuoi lasciare il tuo palazzo. Questo è il motivo per cui l'ho costruito in primo luogo, ricordi? Sì, non desidero lasciare la terra. Vai avanti, ti aspetterò qui come ogni anno. Si abbracciarono e poi Lunaro se ne andò. E così Blula rimase da sola. Passarono i mesi e un giorno, per la noia, Blula decise di fare una passeggiata nei boschi, oltre il grande fiume, ignara che Crystal, la gigante di ghiaccio, l'aspettava. Quando raggiunse i boschi, Crystal apparve di fronte a lei. Benvenuta, Blula! Ce ne hai messo di tempo per venire fuori dal tuo territorio. Chi sei? Io sono Crystal, la gigantessa del ghiaccio, e sono qui per prendere il tuo posto. Congelati! Subito, Blula fu ricoperta di ghiaccio e si gelò. La terra è ora mia! e presto la terra fu ricoperta di ghiaccio. I fiumi si congelarono, i fiori scomparvero e gli animali si gelarono. Lunarone fu informato dal suo saggio ministro. Chiese immediatamente al suo saggio ministro di organizzare un incontro con Solaris. Sire, dovresti incontrare Solaris di nascosto, in modo che Crystal non venga a conoscenza della vostra riunione. Se lo scopre, prenderà misure preventive contro di te. Hai ragione. Cosa suggerisci allora? Il saggio ministro suggerì un'idea che colpì Lunaro. Geniale! Questo è quello che farò. Più tardi quel giorno, Lunaro mosse la luna e la collocò proprio tra il sole e la terra. Ciò causò un'eclissi e la terra divenne completamente buia. A metà strada Lunaro incontrò Solaris e la principessa Primavera e spiegò loro tutto. La principessa Primavera era terrorizzata. Madre! No! Vedendo sua moglie inorridita, Solaris divenne furioso. Scioglierò Crystal con la mia furia! Lunaro, allontanati! Lunaro annuì e si allontanò. Solaris scatenò la sua furia su Crystal e presto tutto il ghiaccio iniziò a sciogliersi. Che cosa sta succedendo? Perché tutto il ghiaccio si scioglie? I raggi del sole erano troppo potenti per lei. Capì subito che era Solaris. Va bene, nessun problema. Fermati! Non mi fermerò finché non libererai Blula! La libererò, ma a una condizione. Non credo che tu capisca. O la lasci andare o ti faccio sciogliere completamente. Non ci sono condizioni. Bene, vai avanti. Scioglimi. Ma ricorda, sciogliermi causerà grandi inondazioni su tutta la Terra e questo richiederà eoni da risolvere. Solaris era sbalordito. Hai ragione. Non possiamo scioglierla. Chiedile quali sono le sue condizioni. Solaris fumava di rabbia. Bene, qual è la tua condizione? Per ora me ne andrò. Ma ogni anno, quando la principessa Primavera tornerà da te, voglio il mio regno sulla terra. Per tutti e 9 mesi. È assurdo! 9 mesi di freddo gelido danneggeranno la terra. Cosa troverei al mio ritorno? Crystal pensò per un po' e poi disse: Va bene, 7 mesi allora. Dove pensi che il nostro figlio appena nato, Monzone, andrà per le sue avventure? Abbiamo deciso di mandarlo nel palazzo di sua nonna ogni anno per 3 mesi, in modo che possa imparare tutto sulla terra e inondare tutto di pioggia. Oh, dai, adesso, un bambino? Non è un bambino normale. È il figlio di Solaris e della principessa Primavera. Bla bla bla. Ok, bene. 4 mesi. E questo è tutto. 2 4 2 4 Va bene, fermatevi. Ma tesoro, sto solo cercando di... Sì, lo so, ma mia madre è una statua là. 3 mesi. Hai 3 mesi l'anno. Prendere o lasciare. Ok, bene. Ci vediamo l'anno prossimo. Detto questo, scomparve in una sottile linea di vento freddo e se ne andò. La principessa Primavera raggiunse subito la terra e non appena calpestò l'erba, il ghiaccio scomparve. I fiumi rincominciarono a scorrere, gli alberi avevano frutti e gli animali erano allegri. La terra sembrava bellissima. Il ghiaccio addosso a Blula scomparve e fu di nuovo libera. Mamma! Primavera, figlia mia, sei venuta per me! Le due si abbracciarono e la principessa Primavera spiegò a sua madre tutto quanto quello che era successo. Mia figlia, mio marito e mio genero hanno fatto bene quando ero intrappolata. Sono così fortunata. E non ti preoccupare, per quanto riguarda Crystal, la accetterò per 3 mesi. Ma dimmi, qual è la buona notizia che mi volevi dare? Mamma, ho dato alla luce un figlio. Diventerà il gigante delle piogge. Lo abbiamo chiamato Monzone e verrà a trovarti ogni anno per 3 mesi. Oh, che meraviglia! Sono così felice, figlia mia! E così è andata. Ogni anno la principessa Primavera viene per 3 mesi a visitare Blula e la terra fiorisce. Quindi Solaris torna per riportarla nel suo regno, portando con sé l'estate sulla terra. Poi il monsone viene a trovare sua nonna e rimane con lei per 3 mesi. Durante quel periodo piove ovunque sulla terra. E poi, quando se ne va, Crystal viene e con sé porta l'inverno negli ultimi 3 mesi dell'anno. E per quanto riguarda Blula, ha abbracciato tutte le stagioni con amore. E insieme, sotto di lei, la terra prospera.